argentano e in questo orato vaso frutti dell'amor tuo scettro ed impero. Mi cor possente e chiude di mirabil virtude. Questo pane ha infrangibile catena.